Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da oggi su alcuni autobus di Trieste le guardie giurate faranno da dissuasori di eventuali comportamenti violenti o scorretti. Questa mattina la presentazione del nuovo servizio. Criminalità a Trieste, al 15° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore sul numero di denunce per abitante. Pordenone in fondo alla lista è tra i capoluoghi con meno denunce. Chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro gli operatori delle case di riposo che fanno capo a UNEBA in sciopero oggi, presidio davanti alla prefettura di Pordenone. Consiglio regionale, parere favorevole a larga maggioranza della terza commissione su due provvedimenti della giunta regionale che riguardano l'assistenza domiciliare, i caregiver. Al via i lavori sulla ex strada provinciale che da Resiuta porta in Valresia. Due anni fa un incendio ha reso necessari i nuovi interventi che termineranno il 19 ottobre. Comincia oggi a Udine la 10ª edizione della Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili, percorso formativo rivolto a diplomati, laureati, tecnici e operatori del settore. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic. Come avete sentito dai titoli, questa mattina è stato presentato a Trieste il nuovo servizio di sorveglianza all'interno degli autobus della Trieste Trasporti. Finanziato dalla Regione, viene garantito da guardie giurate armate che hanno soprattutto la funzione di scoraggiare con la loro presenza comportamenti violenti, sgradevoli o scorretti. Benvengano i vigilantes in autobus, io sono stato persino derubato, racconta un signore. Mi sento insicura, specie la sera, dice una ragazza. Mio marito fa l'autista da 30 anni, ci racconta una donna alla fermata del bus. Non fa che dirmi, la città è cambiata. Sono queste le reazioni che raccogliamo da parte degli utenti dei mezzi pubblici alla notizia che il comune di Trieste ha deciso di introdurre all'interno degli autobus dei vigilantes a tutela del personale dei passeggeri. I fondi sono stati concessi dalla regione Friuli Venezia Giulia a tutti i comuni sopra i 20.000 abitanti. 120.000 euro il costo dell'operazione e a partire da questo pomeriggio i vigilantes saranno in azione. Tra le linee più sensibili la 20 che va verso Muggia, la 10 che va verso Valmaura, ma anche la 21 e la 1. Su queste e altre linee si sono contati numerose aggressioni o situazioni di disagio durante quest'estate. L'ultima aggressione ai danni di un controllore della Trieste Trasporti appena 3 giorni fa proprio a bordo della linea 20. Un uomo di 37 anni ha preso a pugni il controllore nel momento in cui gli è stato chiesto il biglietto. I vigilantes saranno guardie giurate armate che usciranno a coppie di due. Caterina De Gavardo, assessora alla sicurezza, perché avete deciso di accedere a questi fondi? Ma questo è semplicemente un pezzettino di un puzzle molto ampio, sicuramente un progetto fondamentale, ma come dicevo un pezzo di un puzzle di iniziative, provvedimenti, impegni che il Comune di Trieste, anche attraverso la Polizia Locale, sta mettendo a terra per rispondere alle richieste del nostro territorio. È vero che la città è cambiata? Beh, la città è cambiata e su questo non si può assolutamente negare. Noi però ci siamo e ce la stiamo mettendo tutta. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste è la città italiana dove viene denunciato il numero più alto di violenze sessuali in rapporto al numero degli abitanti, mentre Pordenone è una delle città d'Italia in cui ci sono meno denunce di spaccio per droga. A dirlo l'ultima classifica in tema di criminalità stilata dal Sole 24 Ore. Quanto questo rispecchi le reali pericolosità dei luoghi o viceversa, la loro sicurezza è difficile da dire. Sicuramente la classifica dà la misura della propensione a denunciare. Trieste è al 15° posto in Italia per delitti denunciati dalla polizia all'autorità giudiziaria nella classifica pubblicata oggi dal quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore. Gorizia segue molto distanziata al 70° posto, mentre Udine è all'82° posizione e Pordenone è 102° e quasi in fondo alla classifica, a soli 4 posti da Oristano, che secondo la graduatoria sarebbe la città più sicura, in cui cioè è stato registrato il minor numero di denunce. L'indice della criminalità del 2024 è calcolato sui delitti registrati nel 2023 ogni 100.000 abitanti. Milano è la città con il maggior numero di reati, a fronte di oltre 7.000 segnalazioni. Seguono Roma e Firenze, dove invece, con Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d'Italia. Trieste è anche la città in cui emerge la maggiore percentuale di reati ogni 100.000 abitanti, a fronte di un 87% che a livello nazionale è seguito da Prato e Genova. A Udine l'incidenza è del 35%, ancora più bassa a Pordenone con il 29%, mentre Gorizia si ferma al 28%. In dettaglio, Trieste si conferma prima città d'Italia per incidenza di violenze sessuali, che sono 24 ogni 100.000 abitanti. Il capoluogo giuliano è poi secondo a livello nazionale per truffe e frodi informatiche, perché ne sono denunciate 762 ogni 100.000 abitanti. Al contrario, Udine si segnala ultima per incendi, 1 ogni 100.000 abitanti, e penultima per estorsioni, 9 su 100.000. Pordenone invece è penultima per denunce di spaccio, 12 ogni 100.000 abitanti, e terzultima per danneggiamenti, che sono 200 ogni 100.000 abitanti. A livello nazionale, rispetto alle cifre pre-Covid, si segnala un aumento dei reati dell'1,7%, ma il totale resta del 17% al di sotto del 2014. In crescita rapine, percosse e omicidi, oltre a truffe online. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Hanno a che fare con l'assistenza agli anziani, in particolare con assistenza domiciliare e caregiver, i due provvedimenti della Giunta oggi in discussione, in terza commissione. Ci ha raggiunto in studio Andrea Vardanega. Sì. Terza commissione sulla necessità di valorizzare il lavoro di chi per professione o come familiare si prende cura delle persone non autosufficienti, da qui l'ampia maggioranza con la sola astensione di Furio Onsel di OpenFVG, con cui è stato dato parere favorevole a due delibere della giunta regionale. La prima prevede che il riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza sia garantito ai cittadini a prescindere dal luogo nel quale la cura viene prestata, e quindi non solo nella RSA ma anche per chi sceglie di restare tra le mura domestiche, coinvolgendo quindi i servizi dei comuni e le realtà del terzo settore presenti sul territorio per offrire un servizio il più possibile legato agli specifici bisogni di ciascun individuo. Una sperimentazione in questo senso è già stata avviata nei comuni di Sacile, Udine e Trieste. La seconda delibera, che ha tenuto il via libera della terza commissione, stanzia invece $500.000 l'anno per 3 anni per il supporto e la formazione dei caregiver familiari, siano essi professionali o familiari. I fondi che saranno gestiti dalle aziende sanitarie e dei servizi sociali dei comuni. Allustrare i due provvedimenti, ma soprattutto la strategia della Giunta, che è la loro base, l'assessore Riccardi, che ha ribadito come il ruolo dei privati, familiari ma anche terzo settore, sia fondamentale per gestire una problematica in espansione anche per il progressivo invecchiamento della popolazione e alla quale le strutture pubbliche non possono far fronte da sole. E proprio questo arretramento della mano pubblica, sia pure nel voto favorevole o nell'astensione, è stata la perplessità chiave espressa dalle opposizioni, in particolare da Serena Pellegrino dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Alessandra. E a proposito di assistenza agli anziani, oggi scioperano i dipendenti delle case di riposo che fanno capo a un'EBA in regione, sono una quarantina, il presidio regionale dei sindacati questa mattina a Pordenone sotto la prefettura. Chiedono diritti, salario, riconoscimento, come recita un cartello tenuto alto da una manifestante che ha partecipato al presidio davanti alla prefettura di Pordenone. Sono gli operatori e le operatrici delle case di riposo, delle strutture sociosanitarie assistenziali con contratto UNEBA, che stanno aderendo allo sciopero nazionale e che oggi si sono astenuti dal lavoro per l'intera giornata. Chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da 4 anni e che UNEBA, l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza sociale, torni al tavolo con una proposta nuova. Diego Marini, Fisas CISL. Non possiamo accettare in qualche modo proposte che siano a ribasso e che cadano sui lavoratori quello che è il costo della vita. Quindi pensiamo che fare una proposta concreta su quello che è l'IPCA, quindi andare a calcolare il rinnovo basato sul valore reale del costo della vita. In Friuli Venezia Giulia sono circa 2.500 i lavoratori con contratto UNEBA. Dietro alla loro protesta, la situazione di forte disagio legata alla pesantezza dei carichi lavorativi e la progressiva perdita del potere di acquisto dovuta a salari inadeguati, fattori che stanno portando alla fuga dei dipendenti da un settore che richiede più professionalità ma è sempre meno attrattivo. Emanuele Iodice della CGIL. La proposta dell'associazione datoriale è di €50 lordi mensili. Con il costo della vita che c'è stato in questi anni, è una proposta offensiva per chi svolge un lavoro di cura, un servizio che a parole tutti giudicano fondamentale, poi invece noi sono 2 anni che trattiamo, non abbiamo ancora il rinnovo del contratto per queste operatrici e questi operatori. I sindacati sono stati accolti anche dal vice prefetto Andrea Celsi, che porterà a Roma le loro istanze, definite dai sindacati di forte impatto sociale. Pordenone, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al meteo, cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 18 gradi e mezzo, mare calmo con temperatura di 24 gradi. Udine 20, Gorizia e Pordenone 19. Tolmezzo 14 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Piancavallo 14, Tarvisio 13 e mezzo, Sappada 10 e mezzo, Monte Zoncolan 7 gradi, Monte Lussari 6. Grado e Lignano 19, temperatura del mare 20 gradi. Le previsioni: dal pomeriggio avremo cielo nuvoloso coperto con la possibilità di deboli piogge, specie verso sera, temperatura ancora circa 5 gradi sotto la norma del periodo. Domani ancora cielo da poco nuvoloso a variabile con bora moderata in pianura e sostenuta sulla costa, vento da nord-est in quota, temperature massime in aumento in pianura. Da pochi giorni sono consultabili le liste dei beneficiari della carta dedicata a te, una carta prepagata dal valore di 500 euro utilizzabili per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. I beneficiari sono stati selezionati dall'INPS secondo le priorità indicate dal Ministero dell'Agricoltura. La graduatoria, contenente anche il numero identificativo della carta, abbinato al nominativo di ciascun beneficiario, è redatta in forma anonima ed è consultabile online con l'ausilio del codice fiscale. Il Comune di Trieste sta comunque inviando a tutti i beneficiari anche una lettera per comunicare il numero identificativo della carta assegnata o, in caso di persone già assegnatarie nel 2023, la venuta erogazione, nonché le modalità di recupero in caso di smarrimento, deterioramento o furto della carta. In queste ore stanno iniziando i lavori sulla ex strada provinciale che da Resiuta porta in Valresia. Mezzi fermi, parcheggiati a bordo strada, ma pronti ad entrare in funzione stanotte sull'ex provinciale 42 che da Resiuta porta in Valresia. Qui si sta approntando il cantiere per l'intervento di disboscamento e realizzazione di reti e barriere paramassi sul versante del Monte Staulitz, ancora fragile, con alberi secchi a rischio caduta 2 anni dopo l'incendio doloso. L'intervento partirà nelle prossime ore e durerà fino al 19 ottobre, ma i disagi alla popolazione dovrebbero essere più limitati che in passato. L'EDR, l'ente di decentramento regionale e le ditte appaltatrici si sono detti disponibili a lavorare di sera e di notte, dalle 20 alle 2:30. Non si è quindi resa necessaria l'attivazione di una viabilità alternativa sul greto del torrente Resia. Ci sarà una finestra di apertura dalle 23 alle 23:30 a senso unico alternato per il rientro in valle dei turnisti. Le chiusure verranno effettuate da lunedì al sabato. In caso di brutto tempo i lavori non verranno svolti. Sempre garantito il transito dei mezzi d'emergenza. Dall'altra parte, sull'altra via d'accesso alla valle, la strada regionale di Uccea, di competenza di FVG Strade, slittata invece di 2 settimane al 30 settembre la chiusura per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. L'avvio del cantiere inizialmente previsto per oggi, ma i ritardi sono dovuti a problemi nell'approvvigionamento di materiali. La speranza di una nuova normalità di vita per la valle, come dice la sindaca di Resia, Anna Micelli, passa anche dalla posa della prima pietra del nuovo plesso scolastico. Comprenderà un asilo, finanziato con 235.000 euro di fondi PNRR, una scuola per l'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria e una serie di servizi come la mensa e la sala lettura. Non adeguato ai più moderni criteri antisismici il vecchio edificio, costruito per 180 bambini. Oggi i bimbi sono un terzo di allora e così viene realizzata una nuova scuola, anche per contenere i futuri costi di gestione, con impianto fotovoltaico, centrale a biomassa e un ampio parco intorno. 2 milioni stanziati dalla regione e 500.000 euro dal comune potrebbero servire un altro 1,5 milioni per terminare l'edificio entro 2 anni. Resia, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Comincia oggi a Udine la 10ª edizione della Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili. Il percorso formativo è rivolto a diplomati, laureati, tecnici e operatori del settore. Il corso affronta diversi aspetti relativi alle fonti di energia rinnovabili e del loro sviluppo come risposta ai problemi climatici ed energetici. Comincia con una lezione del climatologo Filippo Giorgi, la scuola dell'Università di Udine dedicata alle energie rinnovabili, arrivata alla 10ª edizione. 21 i partecipanti quest'anno, la maggior parte studenti di ingegneria dell'Ateneo, ma anche alcuni professionisti del mondo delle imprese. Il rettore dell'università Roberto Pinton. Per noi è molto importante perché rappresenta uno di quegli ambiti in cui è necessario formare professionalità, ma anche creare ricerca e trasferimento tecnologico. Una settimana di lezioni e laboratori effettuati in stretto collegamento con le aziende della regione. Marina Cobal, direttrice della scuola. Ogni giornata della SIER è dedicata, come dice appunto il nome della scuola, introduzione alle energie rinnovabili, a una particolare fonte di energia rinnovabile. Quindi parleremo di eolico, di geotermico, di solare fotovoltaico, solare a concentrazione. Si parlerà anche delle possibilità del nucleare e dell'idrogeno. Il docente Alessandro Trovarelli. Ci sono molte persone che apprezzano l'uso dell'idrogeno, ci sono molte persone che invece contestano l'utilizzo dell'idrogeno. Io cercherò di dare una visione il più possibile obiettiva di quali sono i pregi e i difetti dell'utilizzo dell'idrogeno per venire incontro a quella che è la crisi energetica e quindi la possibilità di utilizzare l'idrogeno nella transizione energetica. L'università sta lavorando anche alla creazione di un parco dell'energia, il Future Energy Park, sul terreno di un'azienda agricola dell'Udinese, in cui si sperimenteranno diversi dispositivi per produrre energia green. Abbiamo già installato uno specchio lineare che abbiamo sviluppato qui a Udine, metteremo un gassificatore di nuova concezione, ci sarà un impianto agrofotovoltaico e metteremo anche dei robot per monitorare con sensori lo stato delle piante. Udine, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Vendemmia solidale in un'azienda agricola di Oslavia sul Collio Goriziano, un'iniziativa a favore di ciechi e ipovedenti. Siamo tra i filari della Ribolla di Oslavia, in una delle 7 cantine di quest'area che produce questo vino pregiato. L'occasione è quella della vendemmia solidale con l'Associazione dei produttori della Ribolla di Oslavia e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Gorizia. Un'occasione per unire passione per il territorio e inclusione sociale, creando un momento di impatto emotivo e comunitario. Le persone non vedenti stanno raccogliendo l'uva a mano, ovviamente. Dopo ci sarà un momento conviviale tutti insieme. Nella mattinata c'è anche stata l'occasione di sperimentarsi nell'assaggio e nel sentire i profumi senza però poterli vedere, quindi bendati, così che tutti i partecipanti hanno potuto per un po' immedesimarsi nella condizione di questi giovani ipovedenti o non vedenti. Infine abbiamo assistito al tradizionale passaggio del grappolo, un momento simbolico di scambio tra le aziende vinicole coinvolte. Quest'anno, il quarto anno di questa iniziativa, il grappolo è passato dalle mani della cantina Gravner a quelle della cantina Figel, che ospita infatti l'evento odierno. Un passaggio di consegne per ricordarsi che ogni anno una cantina alla volta è chiamata a dedicare un momento della vendemmia anche ai temi sociali. Oslavia, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nelle scuole primarie torna l'acqua in cattedra, promossa dal Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, con incontri in classe ed esperimenti pratici per promuovere il corretto utilizzo dell'acqua, con l'obiettivo di accompagnare gli studenti delle scuole primarie dei comuni della provincia di Udine a custodire e salvaguardare questa preziosa risorsa. L'approccio pedagogico è infatti quello del learning by doing, facendo in modo che le nozioni apprese dagli alunni si concretizzino attraverso attività manuali o giochi semplici e divertenti. Le attività presso le scuole partecipanti partiranno a dicembre e si concluderanno a maggio 2025. Il Comune di Udine ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di attività culturali durante il periodo di Natale. L'intento è valorizzare tutta la città, compresi i quartieri, per diffondere il più possibile iniziative oggetto del bando. Il budget di investimento è 72.000 euro. Ogni singolo contributo potrà raggiungere al massimo la cifra di 5.000 euro. Tutte le informazioni relative all'avviso, con la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, sono reperibili sul sito www.comune.udine.it. Per i suoi significativi e duraturi contributi nell'insegnamento della fisica a livello internazionale, Marisa Michelini, professoressa senior di didattica e storia della fisica dell'Università di Udine, è stata premiata, prima in Italia, con la GIREP Medal dal gruppo internazionale di ricerca sull'insegnamento della fisica. Il gruppo, nato nel 1966, è la più importante associazione mondiale di docenti universitari nel campo della didattica della fisica. Per le sue ricerche in didattica della fisica nel 2019 ha ricevuto la medaglia dell'Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata e nel 1998 il premio per la didattica della Società Italiana di Fisica. Lo sport molto atteso, il posticipo di campionato tra Parma e Udinese alle 18.30 al Tardini. In caso di vittoria l'Udinese balzerebbe in testa alla classifica in solitaria, distanziando il Napoli di un punto. Due vittorie e un pareggio dopo tre giornate per i bianconeri. Rugna dovrebbe dare fiducia ancora alla formazione che ha battuto il Como. Dopo la squalifica rientra Camarà. Le quote degli scommettitori danno per favoriti i padroni di casa. Ultima volta in cima alla classifica per l'Udinese, la settima giornata della stagione 2022-2023. Abbiamo sbagliato tutto, siamo stati arroganti, superficiali. Dobbiamo lavorare ancora molto per essere squadra. Le prime parole nel post partita del mister alabardato Santoni dopo la sconfitta per 5-1 al Rocco ieri sera. Terzo KO dunque di fila, quello più pesante. Il tecnico sembra non temere l'esonero, dichiarando che la società lo sta supportando e che uno stravolgimento della situazione non risolverebbe il momento delicato. Ci vorrà un netto cambio di rotta per ripartire da una batosta dove gli ospiti si sono portati in vantaggio già al terzo minuto. L'unico gol dell'Unione è quello di D'Urso al 34esimo. Tra i bergamaschi invece i gol di Vania Vlahovic, miglior realizzatore nel girone C a quota 5. Tre gol ieri sera. Tra lui e il Vlahovic bianconero, Dušan nessun grado di parentela. Il parkour, disciplina di ginnastica acrobatica che si svolge tra gli ostacoli urbani, regala soddisfazioni ai colori azzurri. Tra gli ultimi successi in Coppa del Mondo in Portogallo spicca la medaglia d'oro del corregionale Luca De Marchi nella disciplina dello speed. De Marchi, atleta della Dynamic Gym di Lucinico, ha preceduto l'altro azzurro, Andrea Consolini. Prossimo appuntamento importante per De Marchi e gli altri atleti azzurri, i mondiali di novembre in Giappone. Ricchissimo invece il palinsesto dei programmi radiofonici Rai a Pordenone Legge, che torna da mercoledì 18 fino a domenica. Il programma Cool dei Libri Fahrenheit di Rai Radio 3 festeggerà i suoi 25 anni in tandem con il festival, con tre puntate speciali dal 20 al 22 settembre condotte da Susanna Tartaro. Mentre Anna Longo e Paola D'Angelo saranno ai microfoni di Prima Fila per Rai Radio 1 e Massimo Cirri sarà in diretta live per Caterpillar su Radio 2. Maria Pedone e Giacomo Plozner firmeranno invece uno speciale di Rai Friuli Venezia Giulia su Radio 1 a diffusione regionale. Al festival anche Rai Kids con Da Rai Yo-Yo a Pordenone Legge, protagonista Laura Carusino, scrittrice e volto amatissimo di Rai Yo-Yo. Sabato 21 settembre alle 12 nel ridotto del Teatro Verdi la presentazione invece della nuova edizione di Angelo Chi Legge, il podcast che Fondazione Pordenonelegge.it produce per la piattaforma nazionale Rai Play Sound con la sede regionale Rai Friuli Venezia Giulia a cura di Riccardo Cicconetti e Marco Fornasin. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Marusic, in regia per la parte tecnica Corrado Spunton, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.